proprio con lei la bella bionda. Ho scovato la traccia. La cittadina Bersi fare sospetto di corruzione non spontanea. Guardo scegne di sott'occhi, osservarla. Andrea Chenier, per qualche ora in attesa, con febbrilansia evidente, osservarlo. Chenier, tutto il giorno ti cerco, la tua salvezza io tengo. Un passaporto, qui tutto intorno è periglio per te. La tua preziosa vita salva, parti. Il mio nome è mentir, fuggire. Destino, io credo a una possanza arcana che benigna o maligna i nostri passi or guida, or svia per i diversi sentieri dell'esistenza umana. Una possanza che dica un uomo, tu sarai poeta, a un altro, a te una spada, si soldato. Orbene, il mio destino forse qui vuolvi, se quel che bravo mi si avvera. Resto, se non sia vero, allora partirò, e questo è il mio destino, si chiama amore. Io non ho amato ancora, sentita sul mio cammin vicina passar la donna che il destin fa mia. Bella ideale, divina come la poesia, passare con lei la sua voce al mio cuore, udito io l'ho sovente con la sua voce ardente dirmi rampogne, or consigli. Scrive una donna misteriosa ogni ora, in quelle sue parole vibra un'anima. Chi sia indagato in or guarda, io non ritrovo, ma la vedrò, la misteriosa, il fico in me è vero, vediamo. vero femminil. Carta elegante, ma ahimè profumo, alla rivoluzione questo gentil rietto a profumo di rosa provo l'amore. Fenieri onor mio canto, lo giuro, esce da un salottino troppo noto all'amore. Fenieri thank you. ancora per te. Me consenti? Per poco. Una meravigliosa. Ti chiedo che una credi. Che mi vuol dire? E se la sola potenzia e all'alba di domani via in cammino. Il mio piano è fatto, ora attendiamo. Seguirti sei mandata di chi mi brama tu e ben chi sei. Oh, periglioso. O versi che l'ha scelto, se un periglio ne minaccia, sono l'ufficioso che le viene a recar la sua mantia. La mia scrittrice, voi la ognore celata, amica mia. Yeah. Maddalena di Coigny. Geralt! A guisa di notturna io mi ritrovo. Seguì per la strada tua. E merce proibita. Salva! Mi seguirà!